Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, vi salutano dalla redazione di Restiamo Animali nella giornata di giovedì 2 agosto Camilla Lattanzi, Alessandra Giannini, Lorenzo Guadagnucci e Massimo Chiari. Partiamo subito con una frase importante, con la dedica a un personaggio che possiamo definire un martire dei diritti degli animali. È Barry Horn, morto nel 2001 a soli 49 anni in seguito a uno sciopero della fame durante una sua lotta contro la vivisezione. Ci ha lasciato questa frase: se non agisci, approvi. Se non li combatti, allora non vinci. Non perdere tempo a parlare della causa bevendo giù al pub o mangiando polpette vegetali. Valla fuori e vincila. Continuiamo con altri immensi personaggi. In particolare la notizia centrale di oggi è che non è più reperibile Paul Watson. Paul Watson quindi si è dato alla macchia. Arrestato in Germania, Paul Watson, capitano della flottiglia Sea Shepherd, famosa per le azioni dirette a difesa degli animali marini, balene, squali, delfini, foche e molti altri. Paul Watson è stato per il Guardian tra le 50 persone che potrebbero salvare il pianeta e per il Time nel 2000 è stato l'eroe dell'ambientalismo del XX secolo. Oggi Brigitte Bardot si dichiara indignata, dice che è un'immagine della decadenza della nostra società il fatto che una persona interamente dedicata alla sopravvivenza delle specie marine come Paul Watson venga trattato alla stregua di un delinquente comune. Sentiamo su questo argomento Cristina Giusti, che è la responsabile media per la Sea Shepherd Conservation Society. Capitano Watson dal 22 luglio non si è più recato appunto nell'ufficio della polizia dove doveva recarsi periodicamente per lasciare la firma in quanto appunto agli arresti domiciliari in Germania, quindi si suppone che si sia allontanato dalla Germania se non il 22, il giorno precedente. Noi di Sea Shepherd, devo dire la verità, non siamo assolutamente in contatto in questo momento col capitano e ne sappiamo più o meno quanto chi ha seguito un po' la vicenda sul nostro sito www.seashepherd.it, che è dovuto comunque per forza evidentemente allontanare perché stava subendo veramente una grandissima ingiustizia. Dietro al suo arresto c'era questa figura un po' così nell'ombra del Giappone che pare abbia tirato i fili sia per quanto riguarda il mandato di arresto del Costa Rica che per l'arresto proprio di Paul Watson effettuato in Germania, e l'estradizione in realtà sarebbe finita non in Costa Rica ma in Giappone, per cui insomma era un modo un po' così poco ortodosso per riuscire a mettere le mani sul nostro capitano, che è il numero uno del Giappone in quanto efficacemente gli impedisce di cacciare balene praticamente da 8 anni in Antartico e ha ridotto sul lastrico la flotta baleniera giapponese con un grande danno per i loro affari, odiatissimo. Il capitano Watson cercherà di ritornare a bordo delle proprie navi e ci riuscirà sicuramente e rimarrà in acque internazionali presumibilmente, e poi adesso noi continueremo sicuramente tutte le nostre campagne, e questo è una cosa che il capitano Watson ha sempre detto molto chiaramente, indipendentemente da qualunque vicenda giudiziaria personale eccetera e che avrebbe potuto in qualche modo così fermarlo, la Sea Shepherd Conservation Society va avanti assolutamente con tutti i suoi programmi. Noi siamo determinatissimi e lui sarà sempre sicuramente con noi, in questo caso continuerà ad esserci anche fisicamente, però no, ecco, non è assolutamente fondamentale quello che accade a lui né da un punto di vista legale né da altri punti di vista. Le operazioni vanno avanti come previste. Massimo, servici il menù musicale che ha cucinato Giuseppe Coco per noi. Da un Paul a un altro, siamo partiti con All Those Years Ago di Paul McCartney e finiamo con i Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue. Dalle acque internazionali alle ferrovie di casa nostra. Anche in Italia sarà possibile una mobilità animal friendly. Grazie a un accordo siglato tra Trenitalia e la Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente, da mercoledì 25 luglio in via sperimentale fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare su tutti i treni della flotta Trenitalia portando con sé i propri cani di qualsiasi taglia. Gli amici a quattro zampe potranno viaggiare in prima e seconda classe nei livelli business e standard alla metà del prezzo di un biglietto base. Il biglietto per il trasporto del cane può essere acquistato nelle biglietterie e nelle agenzie collegandolo a quello dell'accompagnatore. Gli animali di piccola taglia, custoditi nell'apposito trasportino, continueranno a poter viaggiare gratuitamente su tutti i treni, così come è avvenuto fino a oggi. Da uno studio dell'Università del Wisconsin, pubblicato sul numero di luglio della rivista Animal Behavior, apprendiamo come la monogamia non sia un affare per bradipi. Questi mammiferi, lenti e pigri per eccellenza, hanno abitudini sessuali inaspettate e praticano una complessa combinazione di poligamia e promiscuità. I ricercatori ritenevano che, essendo animali molto sedentari, i bradipi maschi non fossero in grado di difendere con forza un'area di più femmine. In realtà hanno scoperto che i maschi posseggono fino a 3 femmine su cui contare per l'accoppiamento. Non gli va mica male a questi bradipi. Al grido di Vamos alla Papas, alcune settimane fa ho raccolto le patate del mio campo. E se voi come me siete entusiasti di poter mangiare verdure e ortaggi di stagione, quale migliore momento se non questo per mangiare le papas arrugadas con salsa fresca di pomodoro? Ingredienti: 700 g di patate piccole con la buccia, 2 cucchiai di sale grosso, una tazza di pomodorini a piacere, mezzo spicchio di aglio, basilico, olio, peperoncino, facoltativo, acqua. Però Alessandra, come se arrugano esta patatas, patas arrugadas? Lavares accuratamente le patate con la buccia, spazzolandole possibilmente con una spazzola di cocco che tu possiedi, vero Milla? Ah, non è un riccio quell'animale denso di aculei che vive accanto al mio lavello? Mettere le patate in una padella dai bordi alti, evitando, mi raccomando, le sovrapposizioni, aggiungere il sale grosso e versare tanta acqua ad arrivare a circa metà delle patate. Accendere il gas, coprire e lasciar cuocere per circa 25 minuti. Nel frattempo tagliare i pomodorini, possibilmente a dadini. Sono sferici, Alessandro. Sandra, è impossibile. Sfidate le leggi della fisica e conditeli con aglio, olio, sale e basilico. E peperoncino per chi vuole. Testare la cottura delle patate con una forchetta. L'acqua deve evaporare tutta, lasciando una crosta di sale. Servire le patate tagliate a metà, togliendo l'eccesso di sale. Impiattare con la salsina. Contenuti, fotografie, ricette e le immagini dei primi cani beagle arrivati in Toscana dopo l'esperienza allucinante del canile Lager di Green Hill nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Per qualsiasi altra cosa potete scriverci restiamoanimali@controradio.it. E a proposito di ortaggi di stagione, chiudiamo con l'inno delle famiglie di istrici. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Vamos a la papas, oh oh oh oh. Vamos a la papas, oh oh oh oh oh. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti: restiamoanimali@controradio.it.